Buongiorno e bentrovati a Radio Città Fujiko. Oggi siamo qui per parlare di un nuovo museo che ha aperto a San Lazzaro di Savena, una bellissima iniziativa culturale. E siamo qui con i curatori, loro sono Ilenia e Simone. Ciao, benvenuti. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, volete raccontarci un po' che cosa c'è in questo museo che, premetto, si chiama Dinosauri in carne e ossa? Sì, Dinosauri in carne e ossa appunto è un museo che prevede la presenza di ricostruzioni di dinosauri e altri animali preistorici, tutti in scala 1-1, quindi nelle dimensioni che avevano quando sono vissuti tanto tanto tempo fa, e sono tutti ricostruiti nell'aspetto che dovevano avere appunto in vita. Quindi non si trova davanti a scheletri come può essere un museo dove appunto ci sono le ossa fossilizzate, ma ci si trova davanti a quella che è la ricostruzione dell'aspetto basata sulle scoperte scientifiche più recenti e sull'interazione tra i paleontologi, quindi i ricercatori da un lato, e gli artisti e gli artigiani dall'altro, quelli che poi aiutano i paleontologi nel compito di trasformare le proprie scoperte in qualcosa che è accessibile a tutti. E devo dire che avendolo visto il risultato è molto realistico. Grazie, sì, è quello che cerchiamo fare, è proprio di rendere questi esseri del passato come fossero degli animali vivi al giorno d'oggi, quindi proprio dargli un aspetto realistico ma anche naturale, quindi non dei mostri da film ma degli animali veri e propri che come tali avevano il loro comportamento e interagivano tra di loro, avevano una vita sociale, appunto gli erbivori, i carnivori pure parentali e via dicendo. I dinosauri, si sa, piacciono a tutti, ma quello che volevo chiedere è se vi rivolgete più a un pubblico di bambini oppure di adulti. Allora, il pubblico è a 360 gradi. Sicuramente i bambini sono quelli che ne vengono più affascinati, sono quelli che rimangono assolutamente a bocca aperta, ma con il nostro grande piacere anche gli adulti fanno altrettanto. Ci sono informazioni per tutti i gusti che si possono trovare all'interno della mostra, dove ci sono sempre anche degli esperti, quindi c'è personale a disposizione che ha voglia di raccontare, ci sono degli illustratori che disegnano con i ragazzi e che regalano anche disegni, e facciamo tutta una serie poi di eventi dedicati a tutte le età. Beh, fantastico. Quindi un nuovo museo, nuove attrazioni, nuove attività per bambini e per adulti. E per avere maggiori informazioni anche sugli orari, su come arrivare, come possiamo fare? Noi abbiamo un sito e anche una pagina Facebook dove aggiorniamo sempre tutte le nostre aperture. Apriremo anche degli eventi serali per guardare i dinosauri con la luce delle torce. Wow! Esatto. Non ci spaventerà? Beh, un pochino, un pizzico. Che bello. Di emozione. Quel giusto per essere più suggestivo, diciamo. E poi invece per quanto riguarda gli orari di apertura? Allora, noi siamo aperti per il pubblico generalmente il venerdì dalle 15 fino alle 20 e la biglietteria chiude un'ora prima per darci la possibilità di avere tutto il tempo di goderci la visita. Invece il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 e la biglietteria chiude sempre alle 19. Ma tutti i giorni, se un gruppo vuole prenotare, siamo sempre aperti. Perfetto, grazie Ilenia, grazie anche a Simone di essere venuti. Quindi ricordiamo, insomma, non l'appuntamento, ma a questo punto la visita a Dinosauri in carne ed ossa, proprio a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Grazie di essere venuti. Grazie a voi.